Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti a voi, buon inizio settimana. Ti vedo un po' tirata, sei dimagrita, hai cambiato colore di capelli. Ci sono tanti modi crudelmente gentile con cui colleghi perfidini e amiche aciducce ci fanno notare che qualcosa è cambiato, o meglio, qualcosa ci ha segnato. Capita in alcuni momenti di non essere in piena forma, di non avere, come dicevano le nostre nonne, una bella cera, di avere, oggi si dice così, una faccia da stress. Faccia da stress a Milano? Mi dovresti chiedere come si riconosce una faccia non stressata a Milano, casomai. Comunque sì, secondo me la cosa principale è la fretta, cioè le persone che hanno molta fretta lo capisci subito. Dalla faccia seria, sempre arrabbiata, che non ti, uno sguardo che non si fermano mai a vedere nessuno, questo. Sigaretta sempre in bocca, no. Caffè in continuazione. Sì, vecchiaia. Occhio fisso. Le occhiaie. Da stress proprio. Non sono abituato a vedere facce da stress. Ma spesso è tesa, cioè la persona sì. Trovo che sia molto tesa, magari gli occhi assenti. Dalle rughe attorno alla bocca. Che il sorriso tirato, che non è un sorriso sì. Spontaneo. Spesso lo noto sì. Nel sorriso io che una persona è stressata. E per voi quali sono i segnali che vi fanno capire che la persona che avete davanti è stressata e quali sono i segni che notate su di voi? Osservatevi con attenzione. La pelle stressata si arrossa facilmente, tira e appare più secca dopo qualche ora passata all'aria aperta. Spesso si copre di chiazze rosse quando si è particolarmente stanchi, appare opaca e di colorito giallognolo, perde elasticità. Sulla pelle stressata, soprattutto intorno alla bocca, fa la sua comparsa uno sfogo di herpes. Aumenta l'acne, la pelle diventa più grassa, spuntano brufoli e punti neri. Le occhiaie sono più evidenti. Allora, cari amici, se vi siete riconosciuti, chiamateci per trovare soluzioni, idee, consigli antistress capaci di restituire benessere alla nostra pelle. Abbiamo tanto da fare perché il nostro campo d'azione è grande, circa 6 metri quadrati, ma dato che la pelle è proprio il primo avamposto a lanciare segnali di malessere, iniziamo a coccolarlo un po', a capire cosa le piace e di che cosa ha bisogno. 800 24 00 24 349-238-6666 se invece preferite mandarci un messaggio. Oggi in studio è tornata a trovarci la dottoressa Riccarda Serri, dermatologa e presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica. Bentornata. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, stress e pelle. Lo stress psicologico, ma vedremo anche il freddo, alcuni cosmetici, i nostri stessi abiti, la pelle è veramente sottoposta a milioni di stress. Certamente, lo stress ci fa brutti, però io non darei sempre una valenza negativa allo stress. Lo anche stress perché ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, quindi non possiamo abolirlo, è anche un propulsore delle nostre giornate. Io dico sempre che se Cristoforo Colombo non fosse stato stressato, non avrebbe scoperto l'America, per cui lo stress può anche essere positivo. L'importante è riuscire a gestirlo e fare in modo che non ci danneggi. Quindi noi dobbiamo cavalcare lo stress. Per quanto riguarda la pelle, effettivamente quando si è stressati i muscoli mimici del viso sono tutti contratti. Facciamo tutti un esercizio. Ora fermiamoci un secondo e detendiamo completamente il viso, la muscolatura del viso. Ci accorgiamo che siamo tutti leggermente contratti. Ecco, bisognerebbe riuscire ogni tanto, durante la giornata, anche una volta all'ora, fermarsi un attimo, rilassare tutti i muscoli del viso e respirare con l'addome e accorgerci e guardare noi stessi, distaccarci dal nostro stress e pensare che in fondo con un sorriso ce la facciamo meglio. Non è quello che ti succede in realtà che è importante, è come lo affronti. La vita è comunque dura. Se l'affrontiamo con minori tensioni e minori preoccupazioni, ecco che anche la pelle migliora, lo sguardo diventa più vivace, più ottimista e noi diventiamo anche più belli. E noi ci facciamo aiutare dalla dottoressa Paola Vinciguerra, psicoterapeuta e presidente di EURADAP, Associazione Europea Disturbi d'Attacco di Panico, e autrice di un libro bellissimo di cui parleremo tra qualche giorno, Instant Therapy, come affrontare e superare ansia e stress in 5 mosse. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi. L'Instant Therapy è ancora poco diffusa nel nostro paese, ma già nota e adottata con successo in Gran Bretagna, offre, dottoressa, un approccio integrato per affrontare il disagio non patologico, dalla bioenergetica al training autogeno, dalla psicologia positiva alle tecniche di immaginazione, che ci permettono di superare passetto dopo passetto quegli ostacoli che rendono la serenità un miraggio. Dottoressa, proviamo a farlo anche per restituire benessere non solo alla nostra pelle ma al nostro sguardo, affrontare in modo positivo la quotidianità, come diceva la dottoressa Serri, a cavalcare questo stress. Ma lo stress sicuramente è una dimensione che nel momento che diventa cronica ci crea dei disturbi importanti, dove la pelle è uno dei disturbi e i disturbi sono di vario genere e anche molto invalidanti. Quindi è importante invece imparare a riconoscerlo e non darlo per scontato. Possiamo fare tante cose, gli esercizi che si troveranno sul libro ci aiutano ovviamente a fare questo e il corso che noi facciamo è anche per questo. Quello che vi posso consigliare è prima di tutto imparare a respirare, perché noi abbiamo perduto il contatto con il nostro fisico. Quando noi siamo stressati noi ci contraiamo e quindi anche la pelle risente di questa contrazione, ma anche tutto il corpo. Quindi la respirazione che noi dovremmo fare è una respirazione diaframmatica, una respirazione profonda, quindi dovremmo respirare con la pancia e non contrarre invece il torace, perché questo riequilibra le nostre energie, ci rilassa e in più ci fa percepire le nostre sensazioni. Proprio in virtù di questo noi consigliamo anche degli esercizi di riappropriazione sensoriale, che sono e potrebbero essere banali, ma nella realtà se ci riflettiamo nessuno lo fa, come quello di sorseggiare un caffè ma non pensando ad altro, cominciando a sentire il caldo della tazzina mentre l'accostiamo alle labbra, il sapore del caffè, e quando abbiamo finito diamoci un secondo di tempo per riflettere e memorizzare la sensazione, spero piacevole, che noi in quel momento abbiamo vissuto. Dottoressa Vinciguerra, sono piccoli esercizi per affrontare il quotidiano che possiamo fare per diventare anche più belli. Ci sono numerose ricerche che dimostrano che lo stress invecchia. Sì, purtroppo lo stress invecchia, perché lo stress, oltre a dare una mimica facciale, oltre che corporea, di tensione, che poi piano piano diventerà ruga, pelle grigia e sguardo opaco, dà un'alterazione a livello ormonale, con un'alterazione di produzione del cortisolo, dell'interleuchina, di alcuni amminoacidi, e quindi crea su tutte le cellule del nostro corpo un invecchiamento. Ultimamente si è parlato anche di altre ricerche che parlavano dello stress e del decadimento della potenza sessuale, quindi lo stress invade tutto il nostro corpo, dall'estetica alla sua funzionalità. Allora, salutiamoci con un brevissimo e facile esercizio da fare più volte anche durante la giornata e da iniziare a fare da oggi, dottoressa Vinciguerra. Ma l'esercizio che dobbiamo fare è cominciare a pensare ad una cosa che ci appare terribile nel suo eventuale accadere. Sì? E scrivere ad esempio tutte le cose terribili che ci spaventano rispetto al suo accadere. Poi mettiamo via questo elenco, pensiamo alla stessa cosa. Sì? E cominciamo a fare un elenco di tutti i fattori positivi che potrebbero verificarsi nel momento che questa cosa accadesse. Io questo esercizio l'ho fatto con dei manager 10 giorni fa ed è uscito fuori una cosa molto interessante. Molto spesso le cose positive sono maggiori di quelle negative. Quindi ciò significa che la nostra attenzione è attratta da ciò che ci allarma, invece noi dobbiamo spostare l'attenzione sulla parte benefica, sia che non è vero che se accada una cosa negativa siamo così in pericolo, perché ci potrebbero essere aspetti positivi che dobbiamo valutare, e sia spostando l'attenzione proprio nel nostro quotidiano, sì, non su quello che non abbiamo, su quello di negativo che ci è successo, impariamo a guardare ciò che di positivo è intorno a noi. Dottoressa Vinci Guerra, la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi. Grazie. Dottoressa Serri, noi oggi parleremo di tutti gli stress che rendono la nostra pelle sciupata. Siamo sempre molto preoccupati anche di avere un aspetto che non tradisca la nostra fatica. Certo. A proposito di preoccupazione, mi viene in mente quella frase che dice: è inutile preoccuparsi, perché se c'è soluzione, perché preoccuparsi? E se non c'è soluzione, perché preoccuparsi? Comunque bisogna imparare a diventare veramente un pochino più distaccati da tutti gli eventi della vita quotidiana, e la pelle ne risente molto bene. Però ci sono anche degli stress che non sono solo stress psicologici, che sono proprio stress fisici, a cui almeno questi possiamo evitarli. Stress ecologici, per esempio il freddo, il vento, sono degli stress notevoli per la nostra pelle, e noi quindi la dobbiamo trattare un pochino meglio, coccolarla un pochino di più, almeno noi facciamolo, pulendola bene in maniera delicata ma profonda, con detergenti che piacciono, creme, oli detergenti piuttosto che saponette delicate, e sciacquando poi bene con una spugnettina morbida, con un pannettino di microfibra fatto apposta per la pelle, piuttosto che con un piccolo asciugamanino anche di lino. Quindi facendo questo delicato peeling e questo delicato massaggio, che cosa si fa? Si ravviva la circolazione, la microcircolazione dermica, che patisce un po' appunto il freddo. Poi, a seconda di come è la pelle non va sempre solo nutrita, perché se la pelle per esempio tende a essere seborroica, cioè grassa, non si possono mettere troppi oli su questa pelle, bisogna mettere più sieri, più sostanze igroscopiche. Igroscopico è un termine difficile, che significa trattengono l'acqua, umettanti come l'acido ialuronico, come proteine, e una minore quota di grassi. Mentre se la pelle tende a disseccarsi, a tirare, a essere ruvida ed esquamante, è bene applicare oli vegetali, burri vegetali, burro di karité, tutti gli oli vegetali del mondo, e questo può fare molto bene. Allora, intanto all'800240024 potete chiamare e raccontarci come la vostra pelle risponde allo stress. Abbiamo parlato di stress psicologico, ma abbiamo anche sottolineato come ci siano altri fattori che possono in qualche modo aggredire la nostra pelle: il freddo, alcuni cosmetici, il riscaldamento, il passaggio dal caldo al freddo, ecco le venuzze rosse. Ma io adesso voglio farvi un po' rilassare, perché abbiamo parlato della respirazione che aiuta ad allentare le tensioni. Questa è una terapia efficace alla portata di tutti e che funziona, ma non ci fermiamo qui. Abbiamo un altro asso nella manica per distendere i segni che lo stress lascia sul nostro viso. In America è di gran moda e mi piacerebbe diventasse di moda anche qui, almeno tra le ascoltatrici e gli ascoltatori di Essere Benessere. Yoga del viso. Composizione: postura, respirazione, rilassamento, dieta e pensiero positivo, i 5 principi dello yoga classico. Indicazioni: visi stanchi e segnati, colorito spento, occhi tristi, sorrisi tirati, contorni cadenti, rughe, occhiaie, borse. Posologia: 5 minuti al giorno da ripetere ogni giorno. Effetti collaterali: buon umore e sensazione di benessere. Controindicazioni: aspetto giovane, luminoso e rilassato, da invidia. Bene, bene, allora non resta che impararlo e aspettare che faccia effetto. In linea con noi abbiamo Benedetta Spada, insegnante di yoga. Ciao Benedetta, benvenuta. Ciao Nicoletta, salve a tutti. Allora, iniziamo a diventare un pochino capaci per questo, a fare un po', no, di esperienza dello yoga facciale. Funziona davvero, dicono? Funziona moltissimo, tanto che appunto all'estero viene utilizzato come una vera e propria pillola di benessere quotidiano e tra l'altro oltre che funzionare è anche molto semplice da eseguire, ci vogliono pochissimi minuti da regalarci ogni mattina, è adatto a tutte le età, uomini o donne, a chiunque insomma, non ci sono controindicazioni. Allora iniziamo con un esercizio, poi nel corso della trasmissione ne faremo altri perché sì. Ci vogliamo muovere proprio per passetto dopo passetto, metabolizzare tutti i vostri consigli. Benedetta. Esatto, iniziamo con portare la nostra attenzione sulla parte alta del nostro volto, quindi immaginiamo di poter essere in questo momento davanti allo specchio, ma anche se non siamo davanti allo specchio percepiamo il nostro volto nella parte alta appunto dell'arco sopraccigliare e in particolar modo l'attenzione si porta in quel punto tra le sopracciglia, all'altezza, alla radice del naso, dove andiamo a portare l'indice della nostra mano destra e iniziamo a stendere questa parte dalla radice del naso verso l'attaccatura dei capelli proprio con un movimento di automassaggio eseguito con il polpastrello dell'indice della mano destra, quindi dalla radice del naso verso l'alto, e facciamo questo con un'inspirazione profonda nel movimento e l'espiro quando riportiamo l'indice, il polpastrello alla radice del naso. Lo dobbiamo fare per almeno 5 volte, quindi 5 respiri, dopodiché quando completiamo prendiamo indice e pollice sempre della mano destra e stendiamo l'arco sopraccigliare sempre con i nostri polpastrelli dall'interno verso l'esterno, cioè sempre dalla radice del naso verso l'esterno, proprio come se volessimo distendere completamente l'arco sopraccigliare e quindi anche le nostre palpebre. Lo facciamo nell'inspiro quando andiamo in apertura e poi quando ritorniamo espiriamo per altre 5 volte. Questo inizia da attivare la circolazione appunto in questa parte, a stendere completamente quel punto che solitamente per tutti è sempre carico di tensione. Dottoressa Serri, come mi trova dopo questo esercizio? Splendida, splendida. E io? Magnifica, siamo proprio belle. Benedetta, noi ci sentiamo nel corso della trasmissione perché ci suggerirai altri esercizi. Adesso vedo che è tempo di dare la linea ai mercati. 800 24 00 24 se volete intervenire. Anche oggi un consiglio di lettura per voi, e abbiamo scelto Yoga per il viso, Red edizione. Lo faremo consegnare a casa all'ascoltatore o all'ascoltatrice che via SMS al 349 238 6666 ci suggerirà la ricetta antistress migliore, che può riguardare un pensiero positivo, un massaggio, un modo nuovo di prendere la quotidianità, una tecnica per prendersi cura di se stessi. Quindi mi raccomando, pensieri positivi, strategie positive, vogliamo lavorare insieme a voi per il vostro benessere, suggeriteci le vostre strategie. Inverno, il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Dottoressa Serri, mi piacerebbe cantare. È fantastica, fantastica Nada, fantastica Nada, veramente. Riascoltando queste canzoni si scopre a dire: ma com'erano avanti? Com'erano avanti, e che grande verità, perché la frase "basterebbe una carezza per un cuore di ragazza" è verissima. Ecco come aiutarci nello stress. Qualche coccola, qualche carezza, visto che le ragazze sono tutte ragazze ormai fino a 95 come e passa dice, anni. Come dice il suo bel libro. Ma anche i ragazzi hanno bisogno. Io sono rimasta stupita, avendo avuto una sorella, essendo cresciuta con donne, poi mi è nato un maschio. E quindi ho visto crescere anche un ragazzo, ma anche i ragazzi di quante coccole hanno bisogno in fondo, non sono così forti e così tutti di come un pezzo come farci io pensavo credere. E come vogliono farci credere. Quindi per ragazzi, le coccole, forse le carezze fisiche e anche le carezze emotive, cioè il come stai, il sorriso, aiutano anche in definitiva la pelle perché ammorbidiscono i tratti e impediscono l'insediarsi di quelle orribili rughe, arcigne che si insediano in chi è sempre teso, arrabbiato. Noi vogliamo solo le rughe del sorriso. Solo le rughe del sorriso, oppure come diceva l'insegnante di yoga prima, una faccia più distesa, più tranquilla. Ogni tanto quando io sento che sono arrabbiata mi visualizzo. Mi visualizzo oppure mi guardo addirittura allo specchio. Quando vedo l'enorme bruttezza di un del mio volto arrabbiato mi viene da ridere. È proprio, dovremmo fare tutti così, guardarci un attimo allo specchio. Portiamoci quegli specchietti nella borsa. Ci guardiamo quando siamo arrabbiati e lì capiamo che forse se sorridiamo un attimo di più risolviamo prima il problema e preserviamo anche la bellezza della nostra pelle, nonché l'integrità e il buon umore della nostra psiche. 800 24 00 24. Allora impariamo a coccolarla questa pelle e a proteggerla anche dagli stress che possono dare anche gli abiti. Dottoressa Serri, Schinecco è molto attenta a questo. Molto attenta, perché noi pensiamo sempre a creme, a detergenti. In realtà quello che sta in contatto con la pelle molte ore, soprattutto nei mesi invernali, sono i tessuti di cui sono composti i nostri vestiti. Bisogna stare molto attenti a come laviamo questi tessuti, che non rimanga nelle tracce, nelle trame dei tessuti, delle tracce di detersivo, perché può essere molto irritante. Le irritazioni da detersivo intrappolato nel tessuto stanno aumentando. E come faccio ad accorgermene che è colpa del tessuto? Perché mi gratto, perché ipotizzo, perché vedo, per esempio, magari uso troppo detersivo, magari anche ho cambiato la lavatrice, ho preso una delle nuove lavatrici a risparmio energetico. Queste lavatrici usano meno acqua, per cui sciacquano meno. Il segreto è usare meno detersivo. Oggi molti detersivi sono concentrati, ma magari non noi si calcola. Noi abbiamo la mano e abbiamo la mano un po' pesante sulla quantità di detersivo. Quindi i tessuti vanno sciacquati molto bene e in caso di pruriti, di allergie, di secchezze, bisogna stare molto attenti anche a quello che si usa dopo, per esempio gli ammorbidenti, gli appretti per quando si stira, e sceglierli possibilmente del tipo meno inquinante, quindi quelli più ecologici con marchio Ecolabel, per esempio, che oggi hanno tutte le grandi catene distributive. Danila ci chiama da Firenze, poi abbiamo Laura, Gianni, Tina. Allora, Danila, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie di avermi chiamato. Ci racconti. Volevo rivolgere una domanda alla dottoressa. Sì. Riguardo la detersione della pelle. In pratica io tutta la mia vita ho deterso la pelle sempre con il latte, il batuffolo di cotone, e poi ho usato il tonico. Ultimamente però riflettendo ho detto, ma non è che io trasporto tutte le particelle dello smog eccetera dappertutto senza avere una pulizia concreta? Allora mi domando, meglio senza acqua o con acqua? Allora, dottoressa Serri, dipende proprio dalla pelle, perché le pelli atopiche, le pelli allergiche mal sopportano l'acqua, soprattutto se l'acqua è molto calcarea, e in questi casi io suggerisco di tenere a portata dell'acqua, per esempio quella che si usa per il ferro da stiro, l'acqua distillata, piuttosto che una bottiglia di acqua minerale. E sì, perché così si evita di usare l'acqua calcarea del rubinetto. Lo usiamo per il ferro da stiro e per la dal nostra momento, faccia. L'ideale sarebbe una bella acqua termale spray, ma siccome sono costosissime, se ne userebbe in quantità veramente grande, anche una bottiglia di acqua minerale naturale può andar bene, oppure l'acqua proprio distillata che vendono al supermarket. Io sono favorevole all'utilizzo dell'acqua anche dopo il latte detergente, a meno che la pelle non sia molto secca o francamente allergica e non sia intollerante all'acqua. Non si trasporta in giro lo sporco, perché comunque i detergenti sono fatti apposta per detergere per benino, però il passaggio finale con uno straccetto di microfibra, una spugnetta morbida, un piccolo asciugamanino morbido e vecchio inumidito, secondo me completa il lavaggio. Allora, una coccola, un'attenzione che dobbiamo dedicarla alla nostra pelle nel momento della detersione, parleremo anche dell'idratazione, ma possiamo anche aiutare la nostra pelle con qualche integratore, soprattutto con una dieta equilibrata e varia. In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Marco Temporin, medico nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva presso la, me lo dice lei, CMSR Veneto Medica di Altavilla Vicentina. Buongiorno dottor Temporin, ho detto bene? Nicoletta. Buongiorno, ha detto benissimo, grazie, benissimo. Allora, che cosa ci consiglia, dottor Temporin, per una coccola? Sì, allora, come una coccola io consiglierei l'olio di borragine. Sì. In quanto l'olio di borragine ha delle proprietà dovute alla naturale presenza di acidi grassi poliinsaturi, i famosi omega 6, che hanno un'azione protettiva cutanea. Sì. L'olio di borragine rappresenta un'importante integrazione per mantenere un corretto equilibrio della cute, in quanto i suoi principi attivi migliorano la traspirazione cutanea e correggono la composizione anche delle secrezioni sebacee. Infatti è molto utile anche nei soggetti affetti da dermatite seborroica. Veramente un toccasana questo sì. Olio di borragine, ma come lo prendo? Come si trova? In capsule? Com'è? Allora, se io voglio prevenire rughe e disidratazione cutanea, posso assumere 2-3 capsule di quest'olio durante la giornata e posso farlo per 2-3 mesi durante il periodo invernale. Stomaco vuoto o stomaco pieno? Non c'è nessun problema, essendo un integratore si può prendere anche durante i pasti, ovviamente se preso a stomaco vuoto l'effetto è sempre migliore. Dottoressa Serri? Certo, io suggerisco spessissimo integratori sia di olio di borragine sia anche olio di semi di ribes nero e sono molto indicati anche in chi ha abnormi reattività cutanee, per esempio dermatite atopica, allergie e effettivamente fa molto bene, funziona molto bene anche per i bambini. Se ne fanno dei cicli però? Si fanno dei cicli, ci si può consigliare appunto col nutrizionista, col farmacista, con l'erborista e con l'amica. Ed è ottimo, devo dire, la borragine è ottima anche in insalata. Io non sono una grossa esperta e non so se in questo periodo cresce o non credo. Penso di ma no, ci perché sono i ravioli di borragine si mangiano di solito in primavera, sono sbaglio. Deliziosi. Non lo so, i nostri ascoltatori sicuramente ci aiuteranno. 349-238-6666. Non sappiamo, io non credo sia già la stagione della borragine, però sulla nostra tavola, dottor Temporin, l'inverno porta dei prodotti che aiutano la nostra pelle a difendersi dal freddo, perché la nostra pelle poi cambia anche i gusti, ne parleremo un po' come succede a noi, no? Non è difficile questa stagione aver voglia magari di un'insalata, abbiamo più voglia di una zuppa. Comunque, dottor Temporin, che cosa possiamo mangiare? Beh, sicuramente, allora, magari effettivamente l'insalata non fa sempre voglia, però carote, spinaci, cavoli, broccoli, come frutta le arance, essendo alimenti ricchi di carotenoidi, che sono i precursori della vitamina A, la vitamina fondamentale per l'integrità della pelle e delle mucose. Inoltre, se uno vuole rendere la pelle più luminosa, io consiglio spesso nelle insalate o anche nelle verdure bollite di aggiungere un cucchiaio di lievito di birra a scaglie, un lievito alimentare stabilizzato. Questo è una fonte naturale di vitamina B e aiuta a mantenere la com'è? Pelle. Com'è? Ci fa mangiare una cosa buona o cattiva? Ma un cucchiaio nelle verdure dona un gusto particolare che non è sgradevole. L'importante è non esagerare, altrimenti il gusto del lievito diventa predominante. Dottor Temporin, torni a trovarci presto. Intanto noi seguiremo i suoi consigli. Buonissima giornata. Un saluto a tutti, arrivederci. Grazie. Dottoressa Serri, prima della viabilità. Nell'insalata metto sempre il gomasio, che sono sesamo, che può essere tostato, i semini di zucca, i semini di girasole, e sono ottimi, rendono più gustosa l'insalata e fanno veramente molto bene anche alla pelle. 800 24 00 24, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, e poi ancora un esercizio di yoga facciale per voi, per noi, anche noi, dottoressa Serri. Andiamo. Stress Fresno, grazie. Oggi cerchiamo di cancellare dal nostro viso tutte le tensioni e, dottoressa Seri, tutto quello che fa bene, dato che la pelle fa parte di noi e che è più visibile, no? Perché il fegato non, per fortuna non lo vediamo, no. Il cuore lo sentiamo nessuno battere. Nessuno dice che bel colon che hai oggi. Ma che bel colon. Ma guarda che meraviglia, che la tua tiroide magnifica. Ecco, tutto quello che fa bene a noi fa bene alla nostra pelle, quindi vanno bene i sorrisi, vanno bene i massaggi, va bene l'olio di borragine, va bene un nuovo amore. Una bella risata, un nuovo amore, un bel massaggio, un qualsiasi tipo di coccola. Però anche ci sono, un bel libro, ecco. Perché no? Ma perché ci sono delle cure ordinarie e delle cure straordinarie. La domanda sorge spontanea. Abbiamo detto che con il cambio delle stagioni i nostri gusti a tavola cambiano. Abbiamo bisogno, no? Primi freddi, primi zuppe calde, ad esempio. Sì. Anche la nostra pelle cambia gusti, come facciamo noi? Beh, ha bisogno di certamente qualcosa di diverso rispetto a quello di cui necessita, ad esempio, in estate o in primavera quando sboccia. Beh, sboccia anche perché c'è più caldo, c'è più vasodilatazione, quindi arriva come più sangue anche attraverso la microcircolazione sanguigna. Il freddo porta vasocostrizione, quindi un minor afflusso di sangue, la pelle quindi ha bisogno di essere più nutrita anche dall'esterno. Gli sbalzi di temperatura di cui parlavamo prima e che non sono evitabili, perché non si possono evitare. A me il consiglio è evita gli sbalzi di temperatura. No, io fa ho letto ridere. Anche un consiglio più strano. Ho letto su internet un consiglio che diceva: quando esci da un posto, da un ambiente caldo, metti le mani, appoggia le mani a coppetta sul tuo viso. Come fa? Ecco, allora io mi sono immaginata tutte le persone che entrano ed escono eccetera con le mani appoggiate sulla faccia per evitare. Certamente è bene che i riscaldamenti non vadano a mille. Tenere un po' più bassi i riscaldamenti in casa e negli uffici aiuta, è meglio coprirsi un pochettino di più, perché questo sì è dannoso, ed è dannoso anche oggettivamente all'ambiente, perché il riscaldamento troppo alto inquina parecchio. Per cui nutrire un po' di più la pelle se tende a seccarsi, cercare di non tenere i riscaldamenti troppo alti anche di notte. I riscaldamenti a pannelli, che ora sono quelli che vengono dal pavimento, sono tra i peggiori, diciamo. È bene tenere umidificato l'ambiente dove si lavora. Quelli che hai tu. Ma però hai una bellissima pelle, per cui ovvi con una buona alimentazione, con una buona attitudine. Cavalco lo stress. Comunque, ecco, secondo me anche bisogna un attimino lasciarci andare. Io sono un edonista, non ci posso far niente, la vita è dura, dobbiamo cercare di ammorbidircela come possiamo. Quindi ogni tanto anche lasciarci andare a un bel pasto, anche non proprio zeppo di cose sane, con gli amici, poi lo controbilanceremo con una giornata più dedicata alla salute. E se viene fuori un brufolino? Un bel bagno caldo. Se viene fuori un brufolino, passa all'acqua. Pasta all'acqua, è molto semplice, la preparano tutti i farmacisti e si mette sul brufolo. Però è molto importante riuscire a affrontare con serenità qualsiasi cosa e senza imporci troppi doveri, ne abbiamo già tanti. Invece dobbiamo imparare assolutamente oggi, poi in questi giorni cercheremo di metterlo anche sul sito, faremo un piccolissimo filmato a Benedetta Spada, così potrete visualizzarlo. Benedetta è ancora in linea con noi. Ciao Benedetta, bentornata. Eccomi qui. Insomma, oggi vorrei che alla fine della trasmissione almeno due esercizi di yoga facciale li imparassimo. Allora, ci siamo occupati fronte, sopracciglia, e io e la dottoressa Seri sembriamo già subito più belle. Non vorremmo esagerare. Siamo. Benedetta, scendiamo e andiamo zona bocca, il sorriso. Esatto, ecco, esatto. Il sorriso dello yoga. Andiamo. E appunto per riprendere questo sorriso e riprendere un po' quello che appunto anche la dottoressa ha detto, ha sottolineato, è molto importante godersi la vita e appunto il buon umore. La pelle, tutti noi, se ci svegliamo alla mattina dopo una notte di pensieri, la pelle è accartocciata di questo. E allora un esercizio che in questo momento tra l'altro va molto di moda è sorridere forzatamente, anche addirittura ridere forzatamente. All'inizio è uno sforzo e quasi ci si sente un poco sciocchi a farlo, ma dopo pochi istanti, dopo pochi secondi diviene più facile ed effettivamente, oltre a tutto il volto a risentire in positivo tutto il volto, anche la nostra giornata. Quindi alla mattina, dopo aver eseguito questi semplici esercizi per la parte alta, iniziamo forzatamente a sorridere. Oltre appunto alla muscolatura del viso, inizierà a giovarne anche il nostro buon umore. Sì. Grazie, allora, Benedetta Spada, dottoressa Serri. È verissima questa cosa del sorridere anche forzatamente, perché è stato dimostrato, le neuroscienze hanno dimostrato che ci sono dei feedback, cioè delle risposte estremamente positive. Cioè, se tu sorridi, dalla muscolatura, dai muscolini mimici del volto, partono dei messaggeri che vanno al cervello e ti rendono più contento. E viceversa, se ti corrucci, se sei triste, succede esattamente l'opposto. Cioè, dalla periferia il messaggio va al cervello, quindi non è sempre la psiche che determina quello che succede alla pelle, ma anche la muscolatura mimica del volto impostata in un'attitudine sorridente lancia messaggi di maggiore benessere e buon umore. Questo è molto importante, ricordatevelo, mi raccomando, e scrivetemi se siete riusciti a fare questi esercizi, se qualcuno dei tanti consigli che vi abbiamo dato oggi, mi stavo impaperando, vi è piaciuto. Abbiamo il nostro profilo Facebook che vogliamo diventi sempre di più ricco di contatti, di suggerimenti da parte vostra. Tra l'altro, tra i molti messaggi che scelgo oggi per dare il consiglio di lettura, grazie alla collaborazione con IBS, che il consiglio di lettura è Yoga per il viso, scelgo quello di Luigi, che ci scrive: potendo, il miglior antistress è un'intensa sessione di scambio di solletico con i miei bambini. 5 minuti possono far recuperare un'intera giornata, e lo confesso, talvolta si unisce anche il cane. Quindi bisogna avere dei bambini o anche dei figli, delle persone con cui si è in confidenza, possibilmente aggiungere un cane, solletico a tutti, e magari la pelle in qualche modo beh, fa certo, vero? Certo, anche... il feedback è quello, quando dicevi intensa seduta di io non ti dico che cosa ho pensato, però anche quello fa molto bene come antistress. Dicono, vero? Certamente. Un po' la circolazione. E, l'amore fa molto bene, non c'è niente da fare. E non ditemi, ma io che non ho l'amore come faccio? Perché l'amore prima di tutto lo possiamo dare, e lo possiamo anche dare a un animale, lo possiamo dare al mondo, a una pianta, a un fiore. L'amore non è solamente amore per l'altro sesso, è amore anche proprio in senso di quello che noi possiamo dare a ciò che ci circonda. E allora, dottoressa Serri, le leggo un messaggio a cui mi sarebbe piaciuto dare un altro consiglio di lettura, ma ne uno solo. Tra un po' porterò qualcuno dei miei libri e ve li manderò a casa con dedica, perché portiamo buono. Tutto quello che non viene donato viene perduto. Giusto. Allora, noi ci salutiamo, speriamo di esservi stati utili, fatecelo sapere, dottoressa Serri, torni presto. Ma certo, volentieri, mi siete molto tutti simpatici, e Nicoletta in particolare. Grazie. Allora... oltretutto è bella come il sole adesso. Allora, a domani, grazie, buona giornata a voi.